Friuli nel mondo, musiche del Friuli, 41esima trasmissione dedicata agli emigrati. Soltanto un emigrante, come fu Arturo Zardini, poteva racchiudere in poche battute lo strazio di chi, costrettovi dalla necessità, sta per abbandonare il paese natio. Un dolor dal curmiden, dot io devi abbandonar, patrie, mame e ogni ben, e palmon mi tocce là. Già io vi ho tis lagrimutis, di che l'anim a spontare, e busant gli sos manutis, ioi dis mi toce. Sta per abbandonare la donna amata che al partente appare nella luce di un angelo in lacrime. Brevi, dure le parole del commiato, mi toce là, devo andare, destino di una gente cui non sono concesse diserzioni sulle vie dell'emigrazione. Ma il friulano sa anche contenere il pianto interno che non trova modo di sfogarsi dagli occhi, lo fa cantando, come nelle sagre paesane. Olin bevi e torna bevi di che svin caletan bon. Alevin, e qui il nome della località preferita, di la tisane, di Rauchet, della delizie, di Richimbelde, dai quei di Buri, dal Cormonese, vendemar sulla stagione. E nella sua stagione, assaporato al tepore del focolare o all'aperto, proprio come nelle sagre, con un senso quasi religioso, in quanto, come avverte Arturo Marescalchi nella prefazione di Vino all'ombra, introvabile guida sentimentale delle osterie da Treviso a Trieste, esso è veramente spirito della nostra terra, estasi della nostra luce, e va bevuto nel quadro del paese, con la mente e il cuore pieni dei ricordi di vicende e di costumanze antiche e gentili. Un madrigale rusticano. Sdrindulaile che bambinute, che si torni a indormidì. Cullatela quella bimba, finché torni a riaddormentarsi. Se è alzata la bella stella, sono 3 ore prima del giorno. Ieievave e la biele stele, son 3 oris denand di. Thank you. Ancora una villotta, nata a Cercivento in Carnia. Cercivento è un paese in due tempi, di sopra e di sotto. Infatti... E Cercivento di sore e Cercivento di sotto. Di sore adan les noles, di sotto adan gli ulops. Motivo a danza, tintine e tintone, oppure dindine e dindone, con domanda e risposta, assecondate dalle movenze aggraziate dei ballerini che si inseguono, s'accostano, si riallontanano, preludio al poema eterno dell'amore. Dindine dindone, cui bali allassù? Cui chiante, cui bale, cui sburte, cui chiale, cui sbrisse e albaiù. C'è zovial, ninine, fa mal o fa ben? Dot lasse une spine plantate in tal sen. Leon piez coticiali, ninin, tu se signor. Dindine dindone, leon piez che la sai. Oramai a che storie noi croc mangia io. Un'ombra di amarezza, di breve durata, vela l'accordo spontaneo degli animi. C'è conti e ninine per aule d'amor, e sempre la spine squindude tal flor. Alla fine una villotta umoristica, lo sfogo di una ragazza che spiega il motivo per cui non vorrebbe sposare un calzolaio. Abituato a battere le suole, finirebbe per battere anche lei. Se io ves di maridami, un cialiar non ce la res. Alle usata batti suelis, anche me mi batares. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, musiche del Friuli, 41esima trasmissione dedicata agli emigrati. musiche di Arturo Tardini e musiche popolari.